Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Libia, la Francia annuncia sono ripresi i raid aerei, scudi umani a misurata davanti agli obiettivi sensibili a Bruxelles e riuniti i ministri degli esteri europei. Frattini, ora ci vuole l'ombrello della NATO. A Roma, governo riunito, la russa, l'Italia non aveva scelta, siamo in guerra senza entusiasmo, decollati da decimo Mannu due caccia spagnoli. È grave la contaminazione radioattiva degli alimenti in Giappone, l'allarme dell'OMS. Lampedusa, quasi 5.000 gli immigrati sull'isola, sbarchi anche nel catanese, Maroni annuncia misure compensative. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24 che inizia naturalmente con gli aggiornamenti sulla situazione in Libia, perché sono ripresi questa mattina i raid aerei, lo ha annunciato il ministro della difesa francese, anche se a Tripoli la situazione appare tranquilla. E intanto a Bruxelles sono riuniti i ministri degli esteri europei, a Roma c'è stato il Consiglio dei Ministri sulla Libia. Ma iniziamo con gli aggiornamenti, Laura Bettini. Buongiorno, sì, come dicevi Alessio, questa mattina sono riprese le operazioni aeree francesi sulla Libia. L'obiettivo dovrebbe essere in queste giornate quello di interrompere le linee di rifornimento dopo aver distrutto la contraerea libica. Ieri sono entrati in azione partendo da Trapani anche sei caccia italiani con compiti di pattugliamento, a quanto sembra. E intanto l'avanzata delle truppe del colonnello sulle città ribelli sembra essersi almeno in parte bloccata per quanto riguarda Bengasi. Le forze rivoluzionarie poi hanno ripreso il controllo di Ashdabia, dove da ieri non ci sono più miliziani pro Gheddafi e la popolazione starebbe lentamente tornando in città. Le cose vanno un po' diversamente invece a Misurata, dove le forze del colonnello circondano la città e a quanto pare starebbero addirittura portando civili da utilizzare come scudi umani a protezione di obiettivi sensibili. Questo lo dicono i ribelli, non ci sono ovviamente conferme di questa notizia. Nei raid di ieri è stato colpito anche il complesso di Gheddafi a Tripoli, e proprio a Tripoli adesso andiamo con Cristiano Tinazzi. Buongiorno, in diretta con noi dalla Libia. Cristiano, ci puoi sentire? Sì, buongiorno a tutti. È stata la seconda notte di attacco per quanto riguarda Tripoli, come l'hai vissuta tu che appunto sei in città? Sì, ieri sera verso le 8:30 è iniziato il fuoco della contraerea, quindi molti giornalisti si sono diretti sul tetto per assistere i combattimenti, che chiaramente non si possono vedere perché ieri sono invisibili, lontanissimi. Ci sono questi tentativi da parte della contraerea libica con i traccianti in qualche modo di sbarrare il passo all'attacco, un attacco che poi si è concretizzato con appunto uno o due missili cruisi che si sono abbattuti sul compound dove si trova la caserma di Bab e la Zizia, dove è residente il colonnello, e che hanno distrutto un edificio di 4 piani dove probabilmente c'era un centro di comando e controllo. Una zona anche che è molto frequentata dalla gente in questi giorni, perché sono tantissime le persone che si stanno dirigendo verso gli obiettivi considerati sensibili per poterli difendere. Invece stamattina la vita è ripresa normalmente qui in città, i negozi sono aperti e anche le notizie di bombardamenti riferite da alcuni canali satellitari sono infondate. La situazione quest'oggi, quindi, di tranquillità sostanzialmente, non ci sono stati raid sulla città di Tripoli? No, assolutamente, ho sentito anche altri colleghi che stanno in un albergo che sta dalla parte opposta della capitale. Per quanto riguarda la città di Tripoli non ci sono assolutamente bombardamenti, poi può essere che ci siano delle strutture militari che sono fuori dalla città, situate a qualche chilometro, e può darsi che li abbiano colpito. Gli scudi umani di cui abbiamo parlato per quanto riguarda Misurata, se ne parla anche a Tripoli, c'è qualche notizia che hai da riferirci in merito a questa notizia degli scudi umani? Sì, che se si intende scudi umani come ostaggi, la notizia non è corretta, quella riferita dalle fonti dei ribelli. Qui le persone a migliaia tutto il giorno vanno alla caserma di Bab el-Azizia, che è stata aperta al pubblico, ed entrano liberamente manifestando la loro solidarietà al colonnello Gheddafi. Tra l'altro l'altro ieri si era presentata anche la figlia del colonnello, che è stata accolta da un bagno di folla. Questa guerra si sta vivendo molto il gioco della guerra di propaganda. Grazie Cristiano Tinazzi da Tripoli. Laura, però ci sono delle notizie che riguardano anche la diplomazia europea. La diplomazia europea che è sempre al lavoro, tanto più che adesso si discute molto anche sulle affermazioni della Lega Araba, che è diventata piuttosto critica sull'intervento che viene condotto dalla coalizione in questo momento. A Bruxelles, dove si trova per il Consiglio dei Ministri degli Esteri europei, il nostro Ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha auspicato che la coalizione passi a questo punto sotto il coordinamento della NATO. Non vogliamo in alcun modo andare oltre la stretta applicazione della risoluzione, ha detto Frattini. L'ipotesi NATO però non piace ai francesi e non piace nemmeno agli Stati Uniti, che pensano di lasciare il comando in mano a un comando, scusate il gioco di parole, franco-britannico. Grazie Laura Bettini per questa prima parte di aggiornamenti. E da quando sono iniziati i raid aerei, i ribelli che hanno la loro roccaforte a Bengasi hanno ripreso ad avanzare dopo l'offensiva fallita delle forze fedeli al colonnello Gheddafi. Allora noi ci colleghiamo con Giampaolo Musumeci, che si trova a qualche chilometro da Bengasi, perché il fronte adesso si sarebbe spostato un po' più in là. Giampaolo, dove ti trovi e cosa vedi questa mattina in questa parte della Libia? Sì, buongiorno a voi. Dunque io mi trovo a circa 80 chilometri da Giubitina, che è una località costiera. A sua volta si trova a circa una quarantina chilometri da Ashdabia. Questa mattina ci sarebbe stato un fitto lancio di razzi Katyusha da Ashdabia verso l'altra località, che sarebbe stata anche attaccata dal mare da piccole navi che avrebbero inviato delle milizie pro Gheddafi proprio per cercare di attaccare la città. Ad uno degli ultimi checkpoint dove siamo stati fermati e dove il traffico veniva dirottato nuovamente su Bengasi, abbiamo potuto vedere macchine in fuga da quelle località e gruppi di miliziani che andavano invece verso il fronte, oltre ambulanze e alcuni camion dei pompieri. Posso aggiungere che venendo in questa zona a ovest di Bengasi ho potuto vedere quello che è stato il risultato dell'aviazione francese ieri, e decine e decine di carri armati, alcuni totalmente distrutti, carbonizzati, altri ancora integri, per cui si è intuito che in alcuni casi evidentemente i conducenti, i miliziani che erano all'interno hanno abbandonato il carro molto prima di arrivare a Bengasi. Comunque un bombardamento sicuramente estremamente efficace, perché davanti a noi c'è un vero e proprio cimitero di carri armati e mezzi blindati. E grazie anche a te allora Giampaolo Musumeci. Ripetiamo, sul fronte della guerra, della guerriglia che si sta combattendo ancora tra le forze fedeli a Gheddafi e i ribelli, che dunque da Bengasi si stanno spostando progressivamente verso ovest. Adesso torniamo in Italia, perché c'è da raccontare anche la cronaca italiana. Consiglio dei Ministri riunito questa mattina e un po' di dichiarazioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. L'escalation in Libia e le sue conseguenze nel Consiglio dei Ministri di questa mattina. Si è parlato infatti anche del continuo arrivo di immigrati in Sicilia, specialmente a Lampedusa. Da questo è partito il ministro dell'Interno Maroni. I fatti delle ultime ore in Libia, ha detto Maroni, ci fanno pensare che la situazione porterà alla partenza in massa di cittadini libici e che questo rischia di essere un'emergenza anche sul fronte terrorismo, ha detto Maroni. Quanto a Lampedusa, ha aggiunto il ministro, la situazione è alla saturazione, ci saranno, ha garantito, misure economiche compensative per l'isola. Ma sentiamo il responsabile del Viminale. Il governo ha deciso comunque di farsi carico di questo disagio grave del lampedusani, che vogliamo ringraziare per la pazienza che stanno mostrando, anche se con qualche scatto polemico. E abbiamo deciso di studiare, di mettere allo studio delle misure compensative per Lampedusa, per i suoi cittadini, per la sua economia. Sulla partecipazione dell'Italia alle misure militari, il ministro della difesa La Russa ha voluto ribadire che non esistono frizioni con la Lega, anche perché ha spiegato, senza di noi la risoluzione ONU non può essere applicata. Ma sentiamo La Russa. Senza di noi la risoluzione non può essere applicata. E quindi chi dice entusiasmo, non entusiasmo, dice sciocchezze, perché in realtà l'Italia aveva una sola scelta, quella di stare dalla parte della comunità internazionale, senza nessun entusiasmo, perché non c'è mai entusiasmo quando bisogna usare le armi, mai. Noi Riteniamo però, ha detto ancora la Russia, che il comando delle operazioni in Libia sia opportuno che passi alla NATO, quanto ad un eventuale voto in Parlamento non ci sottrarremo, ha garantito il ministro. L'opposizione infine, la maggioranza in difficoltà, dice Bersani dal Partito Democratico, la sinistra con Ferrero di Rifondazione chiede invece il cessate il fuoco. Sentiamo allora Ferrero ai microfoni proprio di Radio 24. Penso che l'ONU, invece che lasciar passare 3 settimane senza fare praticamente nulla e poi andare dietro alla Francia e alla Germania che hanno guidato, diciamo, l'idea dei bombardamenti e dell'attacco, l'ONU doveva fare seriamente l'unica cosa che l'ONU è proposta a fare, e cioè sanzioni economiche molto pesanti da subito e nello stesso tempo però intavolare trattative da subito tra le parti per tentare di trovare una soluzione. E grazie allora anche a Vincenzo Miglietta da Palazzo Chigi per questi aggiornamenti politici. Abbiamo sentito tra le dichiarazioni quella di Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista e abbiamo sentito un esponente storico della sinistra italiana, giornalista, ex direttore del Manifesto, Valentino Parlato, proprio sulle divisioni all'interno di una sinistra che rinuncia all'azione come quella di Rifondazione e quella invece del Partito Democratico che è favorevole. Sentiamo. Il Partito Democratico ha preso una posizione assurda, secondo me, perché voglio dire, mai sostenere una guerra, però è la stessa posizione assurda che hanno preso ai tempi del Kosovo. Perché dice assurda? Perché non si fanno le guerre, insomma, non si interviene in guerra. Tradisce le sue origini di sinistra? Sì, tradisce le sue origini di sinistra, voglio dire che le ha dimenticate, non le tradisce più perché le ha completamente dimenticate. E cerca di fare una politica di piccolo cabotaggio, di opportunismo, di dire bene così, adesso noi siamo, come dire, con l'intervento patriottico, queste cose qui insomma un po' inutili. Così Valentino Parlato al microfono della nostra Paola Nania. Abbiamo sentito dal collegamento da Palazzo Chigi le parole di Maroni sulla situazione a sbarchi a Lampedusa, le difficoltà che sta vivendo l'isola siciliana in questi momenti. Stamattina nuovi sbarchi anche nel Catanese. Allora facciamo il punto. Libia, Libia, continuano a ripetere agli investigatori i migranti arrivati la notte scorsa a Catania, ma i dubbi ci sono. In 124 sono sbarcati sulle coste catanesi da 2 diversi barconi. 68 di loro hanno detto di essere minorenni e resteranno al Palanitta, dove sono stati trasferiti all'alba, in attesa di ulteriori accertamenti. La posizione degli altri è al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura di Catania per il riconoscimento, ma c'è più di un sospetto che in realtà siano egiziani. Lampedusa intanto è al collasso. Sull'isola in poco più di 24 ore sono arrivate 13 imbarcazioni, portando a quasi 5.000 il numero di presenze. Il centro d'accoglienza al momento conta 4.000 persone a fronte di una capienza di 850 posti. Altri 1.000 immigrati circolano liberi per le strade del paese senza la possibilità di un riparo dove trovare rifugio. Il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, che è a Lampedusa, insiste perché venga installata al più presto una tendopoli, ma contro questa ipotesi ieri hanno protestato i cittadini dell'isola cappeggiati dal sindaco. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:18, GR24, ben ritrovati. La seconda parte, nella prima ci siamo occupati soprattutto della situazione in Libia, sono ripresi i raid aerei, lo ha annunciato la Francia. Intanto ci sono scudi umani attorno a obiettivi sensibili in Libia, abbiamo sentito il corrispondente a Tripoli, anche l'inviato a Bengasi, abbiamo sentito le dichiarazioni del ministro La Russa sulla partecipazione italiana senza entusiasmi a questa iniziativa, l'Italia non aveva scelta, ha detto La Russa. Prima di andare alle altre notizie abbiamo voluto però sentire anche su un altro fronte, un fronte invisibile di questa guerra, che è quello dei profughi e degli immigrati che stanno sbarcando sulle coste siciliane, la posizione della Chiesa. Anna Migliorati ha intervistato Monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo e responsabile CEI per i migranti. Sentiamo. Non è facile prendere una posizione netta, ci possono scappare, ci scapperanno delle vittime civili, che fare? Qualcosa probabilmente bisognava comunque fare, perché la repressione sarebbe stata terribile e sanguinosa in ogni caso se le truppe governative avessero ripreso in mano le città che erano state conquistate dagli insorti. Il ricorso alle armi dovrebbe essere veramente l'ultima, ma l'ultima scelta che si fa. Le scelte più adeguate sono quelle nelle quali si discute e si cerca insieme, ma per discutere ci bisogna mettersi in due, non basta che uno dica e l'altro ascolti o faccia finta di non sentire, insomma. Stanno arrivando in queste ore anche i primi immigrati in Italia in fuga dalla Libia. Secondo lei quale deve essere la posizione in queste ore? La situazione è molto delicata e forse non è stata valutata appieno fin da subito. Una domanda di libertà non può essere liquidata in forma superficiale o aggirandola. Qui c'è un popolo che chiede, almeno una parte di popolo che chiede diverse condizioni di vita. L'Europa, l'Italia potevano intervenire prima? È questo che sta dicendo? Secondo me sì. Io credo che all'inizio abbiamo trattato con estremo distacco queste vicende come se fossero cose che non ci riguardassero. La Chiesa ha avuto una posizione tutto sommato abbastanza tiepida di fronte a questo attacco, perché in gioco ci sono proprio dei diritti? Esattamente, ci sono diritti umani e diritti di libertà. Si è istituito un paragone tra la guerra contro l'Iraq e questo intervento armato in Libia, ma effettivamente si tratta di due situazioni che non hanno nessuna simmetria, per cui lì Giovanni Paolo II condannò senza mezzi termini l'intervento americano. Qui non mi sentirei di essere così decisamente ostile e contrario. Così dunque l'intervista di Anna Migliorati a Monsignor Mogavero. Adesso cambiamo argomento, chiudiamo la pagina della Libia, andiamo in Giappone. Questa mattina una nuova notizia l'ha data l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito grave la contaminazione radioattiva del cibo in queste ore in Giappone. Ci vorrà un po' di tempo per capire di più il senso anche di questa notizia. Intanto sul fronte dell'emergenza radioattiva c'è una buona notizia: i tecnici sono riusciti ad allacciare i cavi dell'elettricità alla centrale di Fukushima, a tutti e sei i reattori della struttura. I progressi lenti sono stati, ma decisi, sono stati riferiti questa mattina anche dal premier nipponico Naoto Kan. Intanto è rientrato invece fortunatamente il rischio per i musicisti del Maggio Fiorentino, una storia che avevamo raccontato anche nelle scorse edizioni. Sentiamo. Alterazioni di un qualsiasi tipo o anche la paura grande, quella che si scateni un tumore, è del tutto negativa. Nessun rischio per gli italiani rientrati da Tokyo, tra cui alcuni componenti del Maggio Fiorentino. Lo garantisce il professor Giampaolo Biti, primario di radioterapia a Careggi, dove sono stati effettuati i controlli. Le dosi di iodio 131, un isotopo radioattivo, riscontrate sulle persone risultate contaminate, sono infatti minime, addirittura di 1000 o 100.000 volte inferiori a quelle somministrate a chi si sottopone a certi esami o cure. Una quantità 1000 volte inferiore a quella che si riscontra in un paziente che si sottopone a scintigrafia tiroidea, oppure 100.000 volte inferiore a un paziente che si sottopone a terapia sempre con lo stesso isotopo per un ipertiroidismo. Smentisce il professor Biti anche che le persone reduci da Tokyo debbano ora sottoporsi a periodici controlli, come comunicato in precedenza. Non so chi abbia detto periodici, non c'è nessuna ragione di sottoporre a controllo, nessuna ragione clinica, c'è solo naturalmente per dare maggiore tranquillità a queste persone, che speriamo si tranquillizzino perché non c'è nessun rischio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora torniamo in Italia, a Milano, con la cronaca per l'udienza al processo Mills, che vede coinvolto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, non presente in aula per il Consiglio dei Ministri, di cui abbiamo già parlato. In aula però c'erano anche dei sostenitori di Berlusconi, tra i quali anche il sottosegretario del PDL Mario Mantovani, che ha rilasciato anche alcune dichiarazioni polemiche. Allora andiamo in diretta con Palazzo Giustizia, Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi non c'è, come dicevate, ma ci sono i suoi sostenitori che applaudono nelle pause dell'udienza del processo Mills. Impegni istituzionali mi impediscono di partecipare, scrive il Premier in una lettera al Tribunale, ma dà il suo consenso a che il processo prosegua e conferma l'intenzione di partecipare in futuro. Dentro l'aula parla la consulente della Procura, che ricostruisce i complessi passaggi di soldi gestiti da David Mills, l'avvocato inglese, ex ex coimputato del Premier già condannato per corruzione in atti giudiziari. Fuori dall'aula invece, con coccarde azzurre ben in vista, un gruppo di militanti del PDL che si era organizzato pensando di trovare qui il Premier applaude, come abbiamo sentito, l'uscita dell'avvocato Nicolò Ghedini insieme al sottosegretario alle infrastrutture Marco Mantovani, coordinatore in Lombardia. Quest'ultimo tuona contro la magistratura e l'uso politico a suo dire dei processi e preannuncia un'interrogazione parlamentare sui costi del processo Mills. In caso di condanna, esclama, mobiliteremo le folle. Ed è tutto dal Tribunale di Giustizia. Grazie a te, Raffaella. Adesso rientriamo in studio e parliamo di calcio, perché la giornata di ieri, la 30ª della Serie A, è stata importante perché ha riaperto, almeno per gli appassionati, per i tifosi, la corsa allo scudetto, e abbiamo qua il nostro Dario Ceccarelli a fare un po' il punto su questa svolta che, insomma, potrebbe riattivare la passione per il campionato. Dario. Eh sì, hai detto bene Alessio, il discorso scudetto si è riaperto completamente. Due passi falsi del Milan sono bastati per disintegrare tutte le certezze rossonere. L'Inter a 2 punti, il Napoli a 3. Il problema è che a 2 settimane dal derby la squadra di Allegri vede materializzarsi un incubo da fin di Dario Argento. Perde uno scudetto che sembrava già cucito sulle maglie, e con l'handicap di aver perso il treno della Champions. Come mai? Cosa sta succedendo in casa Milan, Dario? Ma intanto paga il famoso effetto Ibrahimovic. Prima è stato premuto un po' troppo, adesso è squalificato e senza il suo apporto il Milan si ritrova caricato a salve. Non è proprio squadra completa. Se poi si aggiunge infortunio di Pato, il derby comincia davvero a essere a rischio. Il Milan poi si lamenta degli arbitraggi, dice che Pazzini al suo 6° gol in nerazzurro ha fatto un gol di petto spalla come Ibrahimovic, e che a Pazzini però non gliel'hanno annullato come invece avevano fatto col Milan. Ma è un brutto segno. Quando ci si lamenta, come un po' in tutta la vita, nel lavoro eccetera eccetera, vuol dire che ci si sente più fragili, più deboli. E poi c'è un altro aspetto: l'Inter di Leonardo viaggia a velocità doppia, e la cosa curiosa è che la vittoria in Champions, a parte, non l'ha fatto logorata o stancata, anzi gli ha dato un morale che in questo momento, se giocassero la prossima settimana, veramente per il Milan sarebbe difficile. C'è la sosta della nazionale e forse per il Milan può essere un brodino per recuperare. Grazie Dario Ceccarelli. Parliamo però ancora di calcio. Tu citavi l'Inter che nella prossima eliminatoria di Champions League incontrerà i tedeschi dello Schalke 04, e un'altra sfida italo-tedesca. C'è un terreno però sul quale le squadre tedesche hanno già vinto, ed è quello dei bilanci delle società. Sentiamo. Quelli che il calcio sono abituati sul campo a viverlo con sofferenza, almeno negli ultimi tempi, sono i Panzer tedeschi. Dalla semifinale tra le nostre nazionali a Dortmund nel 2006 fino all'ultimo scontro in Champions tra Bayern e Inter. 2 incontri ma un'identica conclusione, sempre sconfitti. Un risultato che però non si replica se la partita è giocata sui freddi libri di bilancio. Lì, da un po' di tempo, la Germania ha accelerato sulla fascia, lasciandosi dietro non solo l'Italia ma anche i campioni spagnoli e affiancando gli stessi maestri inglesi. Con minori debiti finanziari a soli 100 milioni di euro e un fatturato in crescita a 1,5 miliardi, la Bundesliga è uscita bene dalla crisi, pronta ad affrontare anche il financial fair play voluto dall'UEFA di Michel Platini. Il campionato tedesco, insomma, vince la Champions dei conti. Vittorio Carrini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora vogliamo parlare ancora dei tagli alla cultura. Se ne è occupato questa mattina anche 9 in punto per Radio 24. I teatri italiani sono in agitazione questa settimana. La nostra radio seguirà con particolare attenzione questa mobilitazione. Partiamo da una lettera aperta al ministro dei beni culturali, scritta tra gli altri da esponenti della cultura e dei teatri. Sentiamo Sergio Escobar, direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano, intervenuto questa mattina a Radio 24. Le conseguenze pratiche sono molto semplici: si ferma qualsiasi attività, perché come lei ricordava un taglio del 60% è incompatibile con qualsiasi gestione corretta. Ma soprattutto, e di questo la ringrazio di questo invito, nella lettera io rivendico un principio che condivido con altri colleghi, e cioè che in realtà siamo arrivati a questo punto perché lo Stato italiano nei decenni non ha mai ritenuto questo un vero investimento. È un conto è dirlo, si fanno un sacco di convegni, si afferma, è un conto è poi il metodo con cui si mettono, si investono e si legittimano degli investimenti. E la beffa finale è appunto tagli che sono addirittura retroattivi. perché va ricordato, questi tagli sono relativi al 2011, quando chiunque sa che le programmazioni dei teatri sono già avvenute, non solo, le stagioni sono già vendute. Ed è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo alla borsa, poi l'Italia in controluce, da Alessio Maurizio in studio, Pietro Lacorte in regia, l'augurio di una buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.